Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Tu di ogni vacanza, noi no, chissà poi perché. Laura Vanossi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Facile, perché lo sport in vacanza non ci va mai. Io ho già un messaggio, vi ricordo il numero verde che è 800 24 00 24. Siamo sempre in diretta, saremo sempre in diretta anche tutto il mese di agosto, figuratevi poi a settembre. Messaggi 349 238 6666, ci sono gli europei di atletica, ci sono delle prime indicative, non so, ditemelo voi, amichevoli, prestagionali, però intanto abbiamo visto le big in campo. Ma soprattutto ci sono i motori, che sono l'argomento più caldo dell'estate. Io ho già un messaggio che è arrivato ben prima dell'inizio della trasmissione. Andrea da Pavullo, provincia di Modena. Ma il numero che ha fatto ieri Schumi non è da radiazione, ci va giù pesante l'ascoltatore. Ci è mancato un centimetro che il brasiliano, Barrichello naturalmente, non vedeva più moglie e figli. Mi scusi per l'esagerazione, ma a mio parere da uno come lui non esiste. Era una gara di Formula 1, non di autoscontri al Luna Park. Schumacher è così, è sempre stato così, prendere o lasciare. Quindi Eni vi presenta Sport e Motori. E oggi con i motori, come annunciato, partiamo subito. Mario Poltroneri, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Webber secondo me fa una gara capolavoro. Alonso centra l'obiettivo, cioè andare qualche giorno ad allungarsi su una spiaggia prima di ripresentarsi in Belgio a fine agosto, pensando intensamente a un mondiale possibile. Vettel paga in esperienza e presunzione, secondo me, butto lì un po' di cose. Massa spiega coi fatti perché è a tutti gli effetti una seconda guida, senza ambizione almeno in questa stagione, ma credo in valore assoluto di poter essere una prima guida alla Ferrari. Schumacher si conferma, dicevamo prima, il solito carognone. Sì, il lupo perde il pelo, non il vizio, perché come dicevi tu è una tradizione. Io ricordo ancora quando fece ribaltare De Monil, che stava vincendo il campionato del mondo in Australia. Sì. E purtroppo ha questi raptus che credo si manifestino con maggior forza quando si tratta di compagni, perché lo stesso sgarbo simile l'aveva fatto a Massa poche gare fa. Quindi invece di rendersi conto che è una macchina che assolutamente non è competitiva, sembra un bambino che vuol far vedere che comunque lui è così bravo che anche con una macchina scadente riesce a stare davanti. E purtroppo ai suoi ex paggetti, come dicevi tu, no? Barrichello, come Massa, ai suoi ex dipendenti, ai suoi ex sottoposti, vuol far vedere loro che comunque lui è Schumacher, è stato il capo, no? Eh già. Comunque, insomma, è stata una gara che era partita con delle premesse di gara tutto sommato non molto interessante, perché tutti ripetevano che i sorpassi erano difficili e lo stesso Alonso ha detto si decide tutto alla prima curva. Invece in realtà ovviamente anche con la presenza di una safety car forse non indispensabile per togliere dalla pista un pezzo di alettone che aveva perso Liuzzi, di fatto si sono sconvolte un po' le carte e Vettel, che stava andando velocemente, non dimentichiamoci che in prova aveva dato un secondo e due a Alonso, quindi sì. La dimostrazione che la superiorità della Red Bull era fortissima, la si è confermata in questa gara, e per questo Alonso ha particolare merito, perché è riuscito a padroneggiare un Vettel che tutto sommato era due volte arrabbiato, la prima per l'errore che aveva fatto dietro al safety car, per cui aveva dovuto cedere la posizione sia a Webber che a Alonso. Ma per giunta era anche arrabbiato perché c'era davanti comunque il compagno, che è il suo più grande avversario. Certo. Con questa operazione Alonso ha fatto non solo la dimostrazione che la Ferrari è praticamente l'unica vettura che può competere in questo momento con la Red Bull, perché le altre, sia Mercedes che McLaren, soprattutto McLaren, non ci si aspettava una flessione come quella di questo periodo, perché a questo punto il campionato diventa veramente interessante, perché Webber ha 161 punti, Hamilton, che ieri si è fermato per rottura, a 157, Vettel ne ha 151, cioè a 10 dal compagno, e Alonso ne ha 141 a 20, cioè dalla vetta. Sì. Per cui tenete presente che il primo prende 25 punti e il secondo 18, è un campionato prestissimo. Sì, sei molto aperto. Siamo alla dodicesima prova su 19. Sì, sì, ci sono ancora tutte le possibilità. Naturalmente per Alonso, come dicevo prima, in vacanza, tenendo spalancate le finestre su questo sogno mondiale, anche se quelli che lo precedono sono tanti, no, per dirlo in termini calcistici. C'è chi scrive, abbastanza condivisibile, Lucio da Vigevano: Vettel ha fatto una strategia perfetta per la Ferrari dal punto di vista sportivo, da togliergli la patente, scrive il nostro ascoltatore. Un altro invece è in linea, Massimo da Milano, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire in merito alla scorrettezza di ieri di Schumacher. Sì. Volevo ricordare, ma l'ha già ricordato adesso Poltronieri, che comunque Schumacher è sempre stato un pilota, seppur eccezionale, piuttosto scorretto. Sì, il problema è che quando era in Ferrari, per ovvi motivi, se ne parlava un po' meno. Adesso tutti a sparare addosso contro Schumacher. Ricordo come che ci tentò anche con Villeneuve, gli andò male, quindi ecco, solo questo. Sì, no, fa bene a ricordarlo, ma d'altra parte, come dicevo prima, e chiedo conferma, pareri anche a Mario, probabilmente non fosse stato così, non avesse avuto quel tipo di pelo sullo stomaco, non sarebbe arrivato in alto come è arrivato Michael Schumacher, sulla cima dell'Olimpo. Ma tutti i grandi campioni evidentemente non sono teneri. Lo stesso Senna, osannato, comunque anche lui spesso è stato abbastanza scorretto, solo che era un mito molto più che non Schumi, e quindi veniva meno criticato, ma comunque non era un pilota che accettasse volentieri di stare dietro un avversario, anche se in quel momento non era per lui indispensabile passare. Lui comunque cercava di passare e passava con molta decisione, diciamo così. Però, come dico, Schumi, sì, senza dubbio è stato aiutato da questa aggressività, ma tutti i campioni sono così. Certo. Io sono convinto che in determinate situazioni anche Alonso farebbe lo stesso, perché in fin dei conti l'abilità con la quale è riuscita a padroneggiare una macchina come la Red Bull, che su un circuito di meno di 5 km con 11 curve, che vuol dire 770 curve fatte, sì, è riuscito a tenere dietro Vettel, che ha una macchina con una trazione nettamente superiore, sì, sì, sì, a quella della Ferrari. No, ma Mario, tutti i grandi campioni, ma basti ricordare anche duelli di Valentino Rossi con Gibernau a spallate o con Max Biaggi. Infatti, insomma, tutti i grandi campioni hanno questo tipo di guida molto, sì, è vero, sul limite. Anche se c'è un ascoltatore che dice: massa di ipocriti, quando Schumi vinceva con la Ferrari dov'era tanta severità di giudizio sulle sue azioni azzardate? Ale da Senigallia: era sempre qui, al di là del massa di ipocriti, era sempre qui, perché non è che siamo qui a fare i tifosi. Schumacher, ripeto, è stato ed è, no secondo me non lo è più, un pilota mostruoso, proprio perché aveva questo tipo di carattere. D'altra parte ti dirò, ha rischiato più lui, perché se avesse toccato Barrichello era comunque contro il muro, quindi siccome ormai le ruote anteriori e posteriori entrambe all'altezza l'una dell'altra, credo che sarebbe stato Schumi quello che avrebbe avuto più danno nella piroletta che sarebbe seguita. Comunque ricordiamoci appunto, in un certo senso, lo scorno di quando appunto fece lo sgarbo a Gilles Villeneuve. Certo. Per cui lui rimase fermo e l'altro riuscì a continuare a correre e poi vince il mondiale. Insomma, non ce n'è da fare, bisogna prenderlo così. Quello che non si capisce è perché in occasioni come queste, con una macchina che è la quarta del gruppo ormai come prestazioni, e stia a preoccuparsi di questo, cerchi piuttosto di far funzionare la macchina. Sì, di migliorare un po' quella macchina, che non va neanche con la spinta, insomma, non va neanche a spingerla, come si dice a Milano. Dunque, tra i tanti sms, mentre stiamo aspettando anche telefonate, 800 24 00 24 è il numero verde, vi vedo già tutti sotto il sole allungati sulla spiaggia ad ascoltarci. No, tanti sms, ad esempio Vettel stava dominando prima di questa stupida regola della safety car rovina della Formula 1, Mauro da Torino. Ma l'entrata ai box di Vettel non era da sanzionare sempre? Da Torino questa volta Marco. Un altro Marco che scrive, e lo faccio subito, esaudisco subito la richiesta: può chiedere al signor Poltronieri se ci spiega il giallo delle gomme morbide, che a detta degli esperti dovevano durare 12 giri. Come ha fatto Webber? E appunto, la accennavo prima quando ti dicevo che la trazione, diciamo, nel complesso e la, diciamo, una sistemazione della trazione per la parte meccanica, sì, che consente una minore usura, perché tra l'altro Webber non ha nemmeno una guida così delicata, certo, come Button, per esempio, quindi non avrebbe dovuto reggere. Infatti la Bridgestone adesso ha fatto un comunicato dicendo ha fatto ben 43 giri quando si prevedeva che ne avrebbero fatti 12-14. Effettivamente questa è la conferma che la Red Bull ha una possibilità di utilizzazione delle gomme, in particolare di quelle morbide, più ampia che non le altre vetture, cioè le altre vetture trovano tutte alcune difficoltà. Sì. Io penso che sia anche perché c'è appunto un intervento di carattere meccanico e non solo elettronico, che compensa la situazione in modo che la vettura in accelerazione consumi meno di quello che consuma le sì, altre macchine. Sì. Rispondiamo insieme anche ad Andrea da Roma. Mario, poi ti saluto, ti lascio a un pomeriggio di riposo. Andrea, buongiorno. Buongiorno, dottor Gente, sempre un piacere. Reciproco, dica. Senta, io volevo un attimino spostare l'attenzione, prendendo spunto dalla gara di ieri, su un argomento tecnico, approfittando anche della presenza di Poltronieri, che è un intenditore. La gara di ieri, secondo me, è la dimostrazione tipica di quanto siano demenziali dal punto di vista tecnico i regolamenti della Formula 1 moderna, con queste ali, soprattutto le ali anteriori, così complicate. Sì. Vettel, insomma, dopo un episodio che ha rimescolato le carte, perché lo ha spostato dalla prima alla terza posizione, pur avendo una macchina di un secondo e mezzo, due al giro, più veloce di Alonso, una volta arrivato dietro Alonso non è stato in grado nemmeno di provarci a sorpassarlo, data la natura della pista. Se voi focalizzate il camera car di Vettel dietro Alonso, appena arrivava sotto, col muso sul cambio, perdeva automaticamente i carichi aerodinamici, aveva fenomeni sottosterzo e la sua macchina in un attimo prendeva quei 30 metri che gli impedivano poi di sorpassare. Sì, tra l'altro a Spa, in Belgio, alla ripresa dei giochi a fine agosto, ci saranno nuove modalità di controllo sulle aree anteriori da parte della FIA. Mario, domanda molto, osservazione molto tecnica quella dell'ascoltatore. Purtroppo non l'ho sentito bene, mi puoi sintetizzare? No, ti dico che notava come ci sia una dinamica molto particolare delle ali anteriori. Ieri Vettel, nonostante avesse la macchina più veloce, non è mai riuscito nemmeno ad insidiare Alonso. No, ma per la verità non è che la vettura fosse più veloce della Ferrari, e faceva un tempo migliore sul giro perché la percorrenza in curva era migliore. Allora, considerato appunto tutte queste curve, evidentemente riusciva nel tratti curvi a guadagnare quello che non guadagnava sul rettilineo. Se ricordiamo, quando riusciva ad avvicinarsi a Alonso, era sempre nel tratto misto, poi lungo il rettilineo delle tribune non si avvertiva minimamente che potesse avvicinarsi, anzi perdeva qualcosa, cioè la Ferrari era forse un po' più veloce. Sì, certo, quanto al discorso, certo, degli alettoni, io sai, ti dirò delle grosse perplessità sul fatto che possano incidere in misura così rilevante sul risultato, nel caso specifico degli alettoni della Red Bull o della Ferrari, però vediamo che cosa dirà la federazione. Cioè, la teoria è che le parti alari non dovrebbero muoversi, certo. Infatti all'inizio era cominciato i primi periodi di divieto ad avere quei famosi alettoni con memoria di forma, per cui si deformavano e diventavano piatti quando erano in piena velocità e poi riprendevano la loro posizione quando la vettura rallentava. Sono bravi a studiare tutte queste diavolerie, io trovo questo regolamento aerodinamico così balordo, che si fanno tante alette, alettine eccetera, poi la realtà quando si va dalla pista, dalla galleria sulla pista, certe situazioni, certo, cambiano. La Red Bull ha un motore Renault che va molto bene e al telaio migliore, come aveva d'altra parte l'anno scorso, e non dimentichiamoci che Eccleston, che vuoi che Mobile se ne intende, fin dall'inizio disse la macchina da battere sarà fin dall'inizio del campionato. Allora, tanti difetti, Bernie Eccleston, ma è uno che ci capisce. Mario, ci sentiamo settimana prossima. Ci sono le moto, tra l'altro, a Brno, e subito dopo ci sarà l'annuncio, come previsto, del passaggio di Valentino Rossi in Ducati. Vorrei cambiare argomento, ringrazio naturalmente Mario Poltronieri, vorrei cambiare argomento e andare a dare un'occhiata invece alle cose del pallone, se permettete. 800 24 00 24, numero verde, poi dopo la borsa ricominceremo a parlare con gli ascoltatori, naturalmente tutti quelli che vorranno intervenire. Roberto Beccantini, buongiorno. Buon pomeriggio, caro. Ciao Roby. Cartellino rosso per Sciumi, non so se hai visto la corsa di ieri. Oh, certo. Non serviva neanche la moviola, eh. Esattamente, devo dire la verità che mi ha fatto fare una riflessione, cioè questo ritornismo, questa voglia del campione. Bravo. Che una volta staccato, quando deve, poi si annoia, ritorna e fa di queste figure. Ho pensato anche al maratoneta Baldini, sì. Ho pensato Armstrong. Ad Armstrong, nel nostro orticello calcistico Marcello Lippi, che aveva vinto il mondiale, su cosa si imbarca, hai capito? Sì, sì. Sai, d'altra parte Berlusconi dice che si potrà vivere fino a 120 anni, quindi non so se sia questo un buon viatico per i giovani, se non viceversa una grandissima polizza per gli anziani. Ma il Milan è fatto così, fatto in spregio alle leggi. Senza dubbio cartellino rosso, spreso dalle leggi anagrafiche, si può vivere fino a 120 anni, quindi si può essere campione fino a 50, può essere questo, questo è il problema, il sillogismo, no? Senti, nel tuo imperdibile punto del lunedì sulla stampa oggi fai scattare il countdown, siamo nel mese del campionato, primi chilometri per tutti, dopo il tagliando di Ferragosto vediamo come siamo messi. Noti anche, molto interessante, che nell'anno che segue i mondiali qualcosa di bizzarro succede sempre. Roma 83, Napoli 87, Sampdoria 91. Sì, è vero, è un dato statistico, trendisti fanno una prova, però credo che dopo Calciopoli, con il dominio dell'Inter rispetto al Milan, alla Juventus, alla stessa Roma, che pure resta, risultati alla mano, l'avversario meno riducibile, sia molto difficile andare verso una sorpresa, soprattutto per come si stanno collocando le scuderie, tanto per stare a una terminologia da Formula 1. Sì, l'Inter ha già cambiato molto e sta per cambiare moltissimo, adesso vanno via Maicon e Balotelli, lo sanno tutti, lo sanno anche i Sassi, però lo stesso sembra inattaccabile. Sì, vedi, del calcio d'agosto estivo non mi fido. Ho però visto questa amichevole col Manchester City, falsata da questa espulsione, secondo me è abbastanza fiscale di Vera, però si vede insomma che questa è una squadra che ormai, al di là di chi gioca, ha imparato come si fa, come ci si comporta. E poi da Mourinho a Benitez non penso assolutamente a un passaggio traumatico, traumatico al limite fuori del campo per noi giornalisti, per i titoli a noi, ma non per quelli a Moratti. Certo, Roby. Milan e Juventus sono situazioni che molto diverse, che hanno genitori molto diversi, ma c'è una somiglianza, sono squadre che non sono all'altezza delle loro ambizioni. Sono squadre largamente incomplete, secondo me. È attaccate a due numeri 10, chiamiamoli così, che vanno verificati di partita in partita. Ronaldinho e Diego, se resta, io tutto sommato lo lotterei ancora per quest'anno, perché la scorsa stagione fu fallimentare, è vero, ma fu fallimentare tutta la Juventus, non soltanto lui, certo. Avrebbe dovuto vendere tutti. La Juve con Del Neri è più attenta alle fasce, anche se poi i piedi che alla fine arrivano a colpire il pallone sono quelli, ecco. Luca da Savigliano scrive: mitico Becca quando scrivi un altro libro sulla Juve. Quando scrivo? Tutti due, non c'è due senza tre, ma insomma. Bravo. Ma dove non c'è fretta? Non c'è fretta. C'è un altro messaggio indirizzato a te: che futuro ci aspetta, visto che in parecchi amichevoli ci sono state risse tra giocatori, tifosi, ecco. Rinvii di gara? È normale? Domanda Rosario. Ma sai, è normale nel momento in cui tu abolisci il pieno estivo, quello della mia giovinezza. che era fatto di amichevole con la rappresentativa trentina, insulse, sì. E poi arrivare gradualmente all'esordio nella città natia della squadra, contro una squadra, contro un avversario di rango. Invece qui si comincia subito dagli avversari di rango, e può succedere allora che, sai, visto che insomma perdere non piace a nessuno, si va incontro a queste figuracce, a questi western reiterati. A questi saloon. Senti Roberto, voglio chiederti ancora questo, non so se siamo particolarmente d'accordo sul punto, però a me personalmente piace molto l'apertura mentale di Prandelli. Oggi leggevo tutte queste interviste che ci sono in giro rilasciate dal CT, tutti convocabili, tutti utili e tutti presi in considerazione a prescindere dal luogo di nascita. Io ero all'inizio temporibus illis attaccato alla nazionale italiana di tutti gli italiani controllatissima, hai capito? Sì. Poi però viceversa bisogna prendere atto che il mondo è andato in un'altra direzione, quindi laddove il regolamento e al limite anche un briciolo d'affetto lo consentono, e vivi naturalizzati, viva gli oriundi, certo. Si cita sempre, noi abbiamo bisogno di un modello di riferimento, certo, quando c'è la violenza, certo. Il modello inglese, in tempi di pace il modello Barcellona, e adesso freschi di mondiali, noi giapponesi d'Europa copioni, la Germania multietnica, 11 su 23. Quindi vedi a proposito del ritornismo, Carlo, vedi nell'intervista che Cesare Prandelli ha concesso oggi, sì, ad Alberto Ceruti della Gazzetta, qual è uno dei giocatori citati? Amaury, che Lippi aveva subito individuato e che avrebbe portato ai mondiali senza il calo clamoroso verticale del giocatore, ma per il quale fu severamente e aspramente criticato. Certo, no, è verissimo. Ma come la moviola, bisogna l'oriundi naturalizzato, usarlo senza abusarne, impiegarlo senza abusarne. Roberto, io non so quando scrivi un altro libro sulla Juve, prendi il tempo che vuoi, l'importante è che di tanto in tanto torni a parlare con me. Mi tratti come un arbitro, sei troppo gentile. Cartellino giallo, guarda. No, ma guarda. Rosso Schumacher. Poi un giorno discutiamo sulla moviola, perché io non la voglio vedere neanche in piccole dosi, su un campo. Esclusivamente per un mezzo tecnologico che mi smascheri i gol fantasma. Quello sì, quello sono d'accordissimo. E per i giudici di linea che mi avrebbero smascherato umanamente il Mani di Arì. Non riusciamo ad essere in disaccordo neanche su questo. Devo trovare un altro tema, ci ragionerò. Grazie, Carlo, Robby. Restano casi clamorosi, Carlo, come il gol del Bayern, arbitro Vrebo, e quello di Tevez, palese fuorigioco, arbitro Rosetti, che è assistente ai Roldi. Quelli, chiaro, sono clamorosi anch'essi, però un passo alla volta. Grazie Roby, a presto. A voi, buon estate. Grazie Roberto Beccantini. Lorenzo da Cesena, Paolo da Bologna, ascoltatore in linea 800240024, numero verde. C'è anche Lotito che insomma sta per prendere Hernanes, stare in Brasile per prendere questo giocatore che è molto bravo. Dice che ci saranno altri due o tre innesti. Un giorno facciamo i conti di quanti giocatori ha sotto contratto Lotito, quelli che avanzano li fa giocare nel giardino di casa sua, mi sa. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a lei, Genta, e complimenti a lei e al dottor Garanzini. Grazie. Vi ascolto tutti i giorni, ma questi complimenti ve li fanno tutti. Bravissimo. Sono molto rapido, le faccio due domande. Prego. La prima è: come mai, se lei e il dottor Garanzini avete mai pensato di andare in televisione a condurre una rubrica sportiva tipo Controcampo o la Domenica Sportiva al posto di quelli che ci sono adesso? E la seconda, io che sono un tifoso milanista, però sono simpatizzante di Mourinho, volevo sapere, secondo lei ha più possibilità di rivincere la Coppa dei Campioni, la Champions League, l'Inter o il Real Madrid? Bel domandone. No, ma sulla prima lascia stare, cioè io sto bene qui, mi piace parlare con voi senza mantenendo questo mistero. E per quanto riguarda Mourinho, più probabilità l'Inter o Mourinho, non lo so, dico la verità, certamente il Real Madrid sarà molto competitivo, anche perché si fanno un sacco di nomi su giocatori che Real Madrid starebbe per prendere. Adesso si parla molto del fatto che Mourinho voglia cedere Kakà, si continua a parlare di Maicon, poi alla fine quelli che arrivano sono giusti, perché stiamo a vedere Di Maria, che è mondiale ha steccato, ma è un ottimo giocatore. Poi ha preso Khedira, che è un giocatore che a me piace da impazzire, che sistemerà, certamente darà equilibrio al centrocampo del Real. Insomma, io credo che sia Inter che Real Madrid saranno due delle 4-5 squadre che dal cui lotto uscirà la vincitrice della prossima Champions League. In mezzo a queste metto il Bayern Monaco. Non so fino a che punto possa essere competitivo il Manchester United, onestamente, quest'anno. e ci sarà certamente il Chelsea. Poi insomma è molto difficile, perché la Champions League, come dicono quelli che ci capiscono, tra cui Mourinho, è una competizione di dettagli. Paolo Bologna, buongiorno. Buongiorno. Ma guardi, io chiederei qualcosa riguardo alla squadra da nazionale di basket. Sì, che stasera gioca. Stasera gioco con Israele, e so che Israele è una delle squadre, diciamo, più forti del girone. Sì, sì, sì, è vero. Solo che non so, non so com'è formato, so solo di Bellinelli e di Bargnani, però degli altri componenti non ho idea proprio. Sì, beh, il gruppo, insomma, ci sono Mordente e Mancinelli che sono i giocatori più esperti. C'è Maestranzi, che è stato il playmaker rivelazione di quest'anno con la maglia di Montegranaro. C'è naturalmente Poeta, insomma, soprattutto c'è Simone Pianigiani in panchina. Sarà una grande sfida, è una grande sfida per lui, che ha già perso più partite in questo inizio di avventure nazionali di quanto abbia fatto in ultime 8 stagioni con Siena. No, ma al di là di quello, insomma, ha perso qualche amichevole e alla sconfitta Simone Pianigiani non è abituata. È chiaro che è un mestiere diverso, credo che sia allenatore al di sopra di ogni sospetto. L'Italia la cominciamo a vedere questa sera contro Israele 20:30, domani naturalmente ne parliamo, ma era già ampiamente previsto. Israele è una bella squadra, c'è Caspi che è un giocatore da NBA, c'è Blutenthal che conosciamo bene anche dalle nostre parti, ha giocato anche nel nostro campionato americano naturalizzato. Insomma, Israele è una cosa seria, si gioca a Bari, bisogna partire bene, 20:30, dalle 20:30 in poi lo scopriamo. Mauro, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo parlare di un argomento, ora non so se è all'ordine del giorno. Tutto comunque è all'ordine era del giorno. Fair play, o del falso, sì, fair play che viene applicato adesso. Sì. Ossia, cioè, se un giocatore, cioè, se l'azione riparte, uno si trova al di là della metà campo e uno è rimasto in terra in aria, si butta giù, si ferma il pallone e l'azione riparte, ti buttano il pallone al corner dalla tua parte, no? Se veramente vogliono, si vuol fare il fair play, il pallone viene reso da dove viene buttato fuori. Cioè, ossia, se l'azione è no, guardi, in attacco, io a monte, butto fuori il pallone lì. Io a monte il pallone non lo voglio vedere fuori. A monte, ho un'opinione un po' estrema, un po' limite da questo punto di vista, Mauro. Un po' più estrema della sua. Io non fossi presidente di una squadra di calcio, dico, l'arbitro è deputato a fermare il gioco. È chiaro che se c'è un infortunio grave ci mancherebbe altro, il gioco si ferma, si prende la palla con le mani, si fa quello che si vuole, però la palla rimane in gioco, perché soprattutto nel campionato italiano, che altrove non lo vediamo molto spesso, anche ai mondiali non abbiamo visto molto spesso questo teatrino del pallone continuamente calciato fuori. Si gioca fino a quando l'arbitro fischia. Se c'è un infortunio grave ovviamente si ferma il gioco, ma i giocatori lo sanno benissimo quando c'è qualcosa di serio oppure no, è inutile stare a raccontarci delle favole, per il resto si gioca a pallone, non si butta la palla fuori. Questa è la mia idea. In questo modo non si pone neanche il problema di dove si restituisce la palla, perché insomma una delle occasioni in cui sono stato maggiormente d'accordo con Fabio Capello fu proprio quando intervenne molto tempo fa su questa polemica, dicendo: io ai miei ho detto che la palla fuori non si butta e lo diciamo anche agli avversari, loro si regolano come vogliono. Quindi questo è quanto. Giuseppe Catania, buongiorno. Buongiorno, dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Ascolti, volevo dire la mia riguardo gli oriundi in nazionale. Sì. Insomma, io non è che sarei veramente molto d'accordo per un semplice motivo. Diciamo che il ragazzo nato in Italia da genitori stranieri, per me è italiano, quindi lo considero assolutamente italiano, e ci mancherebbe, per me sarei contentissimo se qualcuno di questi giocasse. Non per lei, ma per la legge del nostro paese. Okay. Si chiama Ius Soli. Non ho niente da ridire personalmente. Invece sugli oriundi sinceramente reputo che se dovessero giocare in nazionale non li sentirei sinceramente come compatrioti. Anche perché ritengo che se giocano è solo per interesse proprio, ma non perché veramente sentono la maglia azzurra come una cosa importante. Ma guardi, se Giuseppe, convocati dalle nazionali, allora, io le dico una cosa, io credo che Totti e Nesta avessero sentito, Maldini prima di loro, la maglia azzurra, no? Non c'è dubbio. Però questa storia dell'abbandonare la nazionale io non l'ho mai capito, non l'ho mai condivisa. E qui mi rifaccio sempre, il primo giocatore, quando facciamo questi discorsi, il primo giocatore che mi viene in mente è David Beckham, il tanto spernacchiato David Beckham, che a giocare con l'Inghilterra ci andrebbe anche a nuoto attraversando un fiume pieno di coccodrilli. Quindi non starei lì a fare una questione di attaccamento alla maglia, anche perché vedo anche in altre nazionali troppe rinunce, troppi distacco, troppi distinguo, eccetera, eccetera. Quest'estate vengo, non vengo, la prossima magari vengo. Stiamo parlando anche di basket, anche qui succede, lo sapete benissimo. Quindi io sono dell'idea di Prandelli, a me piace molto questa apertura mentale di Prandelli nei confronti di tutti quelli eleggibili. Poi quanto ci tengono alla maglia, quanto abbiano voglia di rispondere alla convocazione, ad esempio uno come Thiago Motta ha sempre detto per me giocare nella nazionale italiana sarebbe il massimo privilegio possibile. Ne faccio più una questione di persone più che di luogo di nascita, ecco. E se volete però continuiamo a parlarne, 800 24 00 24, numero verde, subito dopo, magari lo facciamo dopo perché adesso voglio parlare di atletica con un signore che è stato neanche troppi anni fa di New York, Orlando Pizzolato. Buon pomeriggio Orlando. Buon pomeriggio a voi. Europeo di atletica, un po' come aspirina, dopo il grande buio mondiale. Sì, in effetti doveva essere una manifestazione con dei riscatti e anche delle risposte importanti da parte dei nostri, ma anche dell'Europa in genere, perché siamo un po' affossati dall'Africa per quanto riguarda le corse di resistenza e dall'America per quanto riguarda gli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda velocità e prestazioni di potenza. Senti Orlando, ma visto che stavamo parlando e ampassando, un grande atleta azzurro come sei stato tu, come la vedi questa storia degli oriundi in nazionale? Perché ce ne sono anche alcuni nella nazionale di atletica. A te piace questa apertura oppure la vedi più in maniera tradizionale? Ma è un'evoluzione un po' dei tempi, io la vedrei più a livello tradizionale, però bisogna adeguarsi perché questo succede con i francesi, sì, per quanto riguarda soprattutto i magrebini, poi l'Inghilterra uguale, credo che sia un po' il passo dei tempi e bisogna seguirli, però si fa effetto magari sentire l'inno nazionale perché siamo abituati a persone di pelle bianca, ma non questo che vuole essere una discriminazione, ci mancherebbe, perché sento tanti ragazzi che sono in nazionale che sono legati alla squadra maglia azzurra come lo sono tutti gli altri e quindi è giusto rispettare la possibilità di essere in nazionale e di dare il massimo, perché non lo fanno più con il pensiero di essere originari di un'altra parte, ma lo fanno veramente per la maglia azzurra. Certo, senti invece tornando a Barcellona, cioè questo lampo in un europeo che a livello di medaglie è una sorta di aspirina, cioè questo lampo di una 4% che ha fatto questo record ormai vetusto, non mi sembra però una squadra futuribile. Sì, c'è tanto dentro la nazionale azzurra di atleti verso la fine della parabola della propria carriera, non per questo che poi non ci possa essere un futuro, però lo si vede sempre meno rosa e con un po' di preoccupazione, perché le corse di resistenza della maratona era una squadra di trentenni, ma la parte alta, ecco, i velocisti ieri hanno fatto una grandissima cosa per quanto riguarda il record, come dicevi tu, record nazionale, però ecco, siamo un po' spinti avanti, cosa ci aspetta dopo è una situazione un po' particolare, ci si vorrebbe qualche rincalzo più interessante ma anche più ben fornito come quantità, invece siamo sempre lì a tirare fuori le individualità che a volte fanno la buona prestazione, però quando non sono in forma ci lasciano l'amaro in bocca, ecco, sì. Che allora l'aspirina è veramente, come dicevi tu, una situazione momentanea e chissà cosa verrà dopo, perché quando ci sono i campionati del mondo l'aspirina non è più sufficiente. E no, l'aspirina più che altro non arriva, arrivano sì, solo sì, delle bastonate come è successo un anno fa. Finisce appena appena quei dolori, perché poi non abbiamo la certezza di avere numeri di quantità e numeri uno che possano contrastare invece il mondo che avanza con una violenza impressionante. Ti chiedo un attimo di pazienza Orlando, abbiamo il traffico e poi vorrei da parte tua un'altra considerazione su alcuni campionissimi che non abbiamo più, uno certamente Baldini e poi l'altro è Schwarzer che ha messo dei dubbi molto pesanti usando anche delle parole, come dicevo l'altro giorno, quando insomma, subito dopo le sue dichiarazioni, con parole molto oneste. E poi vorrei capire se Howie ce l'abbiamo ancora, non ce l'abbiamo più, e se è mai stato un campione, effettivamente, perché lo domandano anche gli ascoltatori. Allora, Rolando Pizzolato, dicevamo, non abbiamo campionissimi, uno lo perdiamo per raggiunti limiti di età, cioè Baldini, molto triste la sua gara, la sua ultima maratona, forse ne perdiamo addirittura due, in questo caso non per raggiunti limiti di età, ma per sopravvenuta incapacità di soffrire, l'ha detto lui, Alex Schwarzer, e sul valore assoluto di Howie. A questo punto c'è chi si pone dei dubbi. Io mi metto tra questi, insomma. Sì, è vero. Beh, da Baldini ci si aspettava, era la sua ultima maratona, l'aveva dichiarato, l'avevano tirato in squadra quasi per i capelli, contro volontà, perché lui già pensava l'anno scorso di chiudere la propria carriera, però si diceva a Barcellona sarà una maratona lenta, sarà una maratona condizionata dal caldo, mai si sappia che magari qualcosa possa andare nel verso giusto. Non è stato così, l'abbiamo visto, uno Stefano in difficoltà, perché lo svizzero Rötli non ha riflettuto più di tanto a fare dei favori agli italiani soprattutto, e anche agli spagnoli, quindi a un certo punto ha messo la gara su una situazione difficile, Stefano che non era al 100%, come aveva dichiarato anche il proprio allenatore Gigliotti, si è visto alla resa, perché giustamente faticava tanto ed era solo poco più in là della mezza maratona. Su Schwarzer i timori sono forti, perché quando un atleta in fase di evoluzione manca di motivazioni, ma non motivazioni di tipo atletico, ma non trova dentro di sé le energie per soffrire, e nelle prestazioni di resistenza questa caratteristica è determinante, non ci si diverte più, nel senso che non si apprezza il gusto della fatica, non si apprezza la voglia di andare oltre. Allora ogni volta che si mette le scarpe, io lo definivo, perché c'ero arrivato anch'io a quel punto lì, mi sembra di andare a lavorare. Chiaro che l'atleta professionista ogni volta che mette le scarpe va a lavorare, ma non lo fa come quello che la persona che entra in ufficio o va in fabbrica, lo fa sempre con entusiasmo. Invece da Schwarzer le parole sono di mancanza di energie motivazionali, mentali, e lì che ricostruire è veramente difficile. E quanto ha Andy Howie? È un campione, non è un speranza. Questo sicuramente, perché è un ragazzo dotato di un talento rilevante, però sembra che di mezzo ci sia sempre qualche ostacolo da superare. Sembrava una cosa facile la medaglia di ieri, quasi fosse un po' scontata, poi in pedana aveva difficoltà a trovare la rincorsa giusta, aveva probabilmente non le tensioni giuste, gli mancavano le sensazioni migliori, e poi forse non aveva la condizione ottimale. È una di quelle delusioni che portiamo a casa, perché si sperava quasi in una medaglia certa da quel punto di vista lì. Poi il colore è difficile metterlo, difficile definire, però poteva essere. Lui stesso il giorno prima ha detto: le cose in questa pedana mi vengono facile, quindi domani sarà una passeggiata, ma purtroppo passeggiate se ne fanno poche quando c'è la competizione di alto livello in mezzo. Grazie Orlando, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ad Orlando Pizzolato. Io chiudo il programma, ancora 9 minuti per parlare con gli ascoltatori di quello che vogliono. Francesco, provincia di Viterbo, Guglielmo da Prato, Alessandro dalla provincia di Milano. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, parliamo un attimo di calcio, visto che ci manca. Allora, no, la mia domanda è questa, cioè, essenzialmente, prima hai parlato di Lotito, ma secondo... E voi siete un po' più esperti, quanto manca alla Lazio? Perché loro, cioè la Lazio, fanno parecchi acquisti, ma pochi mirati. Quest'anno mi sembra che, forse sotto i consigli di Reia, qualcosa di meglio ha fatto, cioè compra tanto ma poco bene. Quanto è mancato alla Lazio un operatore di mercato quale era quello che adesso sta al Palermo, Sabatini, un allenatore che l'anno scorso ha fatto tutto quello che diceva Lotito senza mai imporsi? L'anno scorso è stato questo forse il problema, e quest'anno sembra, sotto la guida di Reia, un po' sia cambiato. Sì. Stavo leggendo oggi che forse arriva pure Hernanes. Sì. Cioè, secondo voi è comprare tanto per comprare o c'è stato la Lazio, insomma, pratica questa politica comunque di andare a cercare, come ha fatto con Zarate, giocatori giovani, talentuosi da valorizzare. Cioè, quello che mi lascia perplesso è la quantità spaventosa di giocatori che la Lazio ha in rosa, perché a differenza di tutti gli altri, a partire dall'Inter, insomma, Milan, Juventus, dicono prima vendiamo e poi compriamo. La Lazio arrivano e basta, ne arrivano a camionate. Tanto che Reia, insomma, se vi ricordate, mise in dubbio la sua, a un certo punto, un paio di mesi fa, subito dopo la fine del campionato, mise in dubbio la sua permanenza alla Lazio proprio per questo problema. Disse: io di giocatori ne voglio 24 o 22, non ricordo, due per ruolo. Qui andiamo ad allenarci in 45, a me questa situazione non sta bene. Quindi ciò che mi lascia perplesso nella politica della Lazio, la politica di mercato della Lazio è proprio questo, insomma, in maniera un po' strana, un po', se volete, contro i tempi, un po' anacronistica, va a comprare un sacco di giocatori e poi un sacco ne lascia fuori, poi nascono casi come quelli che ben conoscete dell'anno scorso, ma che sono secondo me proprio figli di questa politica molto spregiudicata e piuttosto strana di Lotito. Quanto al resto, Lotito è lì e decide lui, fa qualunque cosa, compreso forse il magazziniere, quindi tutto il resto non mi sorprende. Guglielmo da Prato, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire riguardo agli oriundi nazionali o cosiddetti oriundi. Sì. Mi sembra però che in Italia non ci sia il diritto di suolo, ma ci sia il diritto di sangue, una delle poche costituzioni che lo prevede. Sì. Sì, come mi pare l'Austria e la Germania. Sì. E mi auguro e spero che si arrivi presto a un diritto di suolo, perché come ha detto un ascoltatore precedente, chi nasce in questo paese, sì, fa le scuole, certo, insomma, ovviamente poi acquisisce, dovrebbe acquisire direttamente la cittadinanza italiana, sì, senza, sì, fare, stare a fare salti mortali, sì, come succede ora, ecco, soltanto questo volevo dire. No, ma certo, bisogna mettersi al passo con i tempi, insomma, chi nasce sul territorio italiano è italiano, ma non starei lì a fare troppe disquisizioni di diritto internazionale, insomma, sono tutte cose che devono stare al passo con i tempi, così come ha diritto di essere, di acquisire i documenti italiani, cittadinanza italiana, a prescindere dallo sport, chi da molti anni lavora sul nostro territorio, sappiamo bene come si acquisisca per via di matrimonio. In questo momento, insomma, io sarei per regole certe e precise da osservare. Tutti quelli che hanno documenti in regola, che hanno le carte in regola per la legge, per essere cittadini italiani, devono poterlo essere senza fare troppe capriole. Noto però con un certo disappunto che in molti altri paesi si stia forzando notevolmente la mano. Ci sono paesi, soprattutto dell'est europeo, dove i passaporti li vendono proprio in maniera piuttosto brutale. Infatti sono un sacco di giocatori extracomunitari, americani soprattutto, accade nella pallacanestro, ma non solo, che stanno diventando cittadini di paesi improbabili in tempi rapidissimi, e questo certamente è un fenomeno deleterio e deteriore. Quanto invece all'acquisizione di cittadinanza italiana da parte di chi a norma di legge ha tutti i diritti, insomma, mi sembra una roba quasi banale. Alessandro, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve. Senta, volevo parlare a proposito dell'Argentina, dei mondiali di quest'anno. Secondo lei Maradona non si è disfatto un po' troppo presto di un giocatore come Riquelme, che avrebbe potuto fare la differenza, secondo me, a centrocampo, essendo supportato però da centrocampisti di quantità, diciamo, come Vari Cambiasso, che però, sì, lui non ha portato. Ma guarda, presto no, Alessandro, perché insomma la disputa intorno al nome di Riquelme è nata il giorno in cui Maradona è diventato commissario tecnico, quindi non è che si è disfatto presto di Riquelme, è stata una vicenda piuttosto sofferta la rinuncia a Riquelme. Giocatore molto condizionante, comunque, secondo me è sempre stato un giocatore estremamente condizionante, non solo in nazionale ma anche in tutte le sue squadre di club, tanto che è riuscito ad esprimersi al meglio soprattutto nel Boca, in contesti molto particolari, in cui lui diventava il giocatore attraverso cui passava l'intero gioco della squadra. Da questo punto di vista, e questo in valore assoluto, se un allenatore non si sente di portare un giocatore così condizionante, al di là del fatto che sia Maradona e Riquelme, io rispetto questo tipo di decisione, molto condizionante, e che richiede un tipo di gioco molto particolare Riquelme, pur essendo un giocatore dai piedi eccezionali, non trova? E per quel che riguarda, per quanto riguarda Messi, non le ha dato l'impressione, secondo lei, che a parte che cercava la via del gol in ogni modo, però sì, tentasse un po' troppo l'azione individuale? Ovviamente un giocatore della sua tecnica, ci si aspetta da lui sempre la giocata, però a volte mi dava l'impressione che esagerava la ricerca spasmodica proprio del gol. Sì, sì, certo, che ci fosse una ricerca spasmodica del gol, questo è vero. A un certo punto mi è sembrato quasi diventasse una psicosi, no, per Messi, ma più che altro di Messi, insomma, è la scarsa personalità quella che mi ha colpito in questa spedizione argentina. Cioè, probabilmente non è ancora pronto, non so se sarà mai pronto, come ha detto un giorno Maradona, per caricarsi la squadra sulle spalle. Messi è un giocatore, l'ho detto molte volte, che dal punto di vista dei colpi, dal punto di vista del talento puro, di ciò che sa fare col pallone, ricorda da vicino quello che è stato il suo commissario tecnico in questa avventura mondiale. Dal punto di vista della personalità invece no, non ricorda né lui né tutti i più grandi del passato, ma un denominatore comune questo tra tutti le presunte superstar che ci sono adesso: bravissimi quando giocano in una squadra vincente, quando invece devono prendersi la squadra sulle spalle qualche problema di personalità ce l'hanno. Questa è la mia impressione. Paolo da Ravenna e poi aggiorniamo la seduta a domani. Buongiorno Paolo. Buongiorno, volevo intervenire sul discorso del falso fair play. Sì. Secondo me abbiamo un problemino in Italia che potrebbe essere questo nel nostro campionato: il cacciar fuori la palla alla prima occasione, anche con giocatori che cadono a chilometri dall'azione. Io lo trovo estremamente antisportivo questo. Esattamente, antisportivo. E altra cosa, l'abitudine, anche questa antisportiva, di volare per terra al primo battito di ciglia, indipendentemente che sia un contatto importante, leggero, medio, e l'abitudine degli arbitri a fischiare molto di più che in altri paesi, anche questo spezzetta il gioco. Alla fine, una cosa, forse se lei ce l'ha mi può aiutare in questo senso, una statistica di quanto corriamo noi e quanto è il gioco effettivo rispetto agli altri campionati, perché sì. Spezzettando così il gioco, per questi due motivi principalmente, siamo abituati a correre poco e avere tempi di recupero elevati. Quando abbiamo partite con molto agonismo a livello internazionale, sia di nazionale che di squadre di club, non siamo abituati, andiamo in difficoltà. Volano sopra letteralmente. Guardi, io non ho le statistiche che lei domanda, non le ho sotto mano, non so nemmeno, insomma, sono certamente recuperabili, magari lo faremo. Però questo, quanto lei dice, è un dato di fatto oggettivo. Noi siamo abituati, dico in maniera molto antisportiva, soprattutto sulla palla recuperata a centrocampo, ad avere queste situazioni di questo tipo. Uno perde palla, c'è il contrasto, va per terra, la palla va fuori, eccetera. Sono situazioni che nel campionato italiano si ripetono una dozzina di volte a partita. Se basta guardare una partita di qualunque altro campionato, a maggior ragione quelle nazionali, per capire che altrove si gioca in un altro modo. Quindi lei ha ragione nel dire che questo si può anche pagare a livello internazionale, certamente. Adesso ci fermiamo, grazie a Laura Vanossi in redazione, a Fabio Cantadore in regia, però domani torniamo qui in diretta dalle 2 alle 3 e vi aspetto anche se siete in vacanza.